Da grande voglio fare il pompiere. Da grande voglio fare il dottore perché voglio salvare la vita a delle persone che stanno male. Da grande voglio fare il poliziotto. Da grande voglio fare la ballerina. Da grande voglio avere te al mio fianco e dirti cose che nessuno ti ha mai detto prima. Ti insegnerò a guardare oltre le luci dei lampioni per vedere le stelle ed arrivare in cima. Resteremo piccoli nel mondo dei giganti. Sceglieremo i vicoli alle strade troppo grandi. In fondo così simili saremo incomprensibili agli occhi della gente che non riuscirà a vedere. Da grande voglio fare, da grande voglio fare lunghi viaggi e non pentirmi. Da grande voglio credere che il cielo non ha fine. Amarti pure quando pensi che tutto va storto. La testa fra le nuvole anche senza passaporto. E stare in equilibrio senza un filo logico. Senza avere alcun appiglio, gli scienziati sbagliano. Barapapa, rapapa, rapapa. Da grande proverò a giocare con i miei difetti, mostrandoti che a volte è bello essere se stessi. Non cercherò la gloria come molti in precedenza, ma sognerò la vita nella sua pura essenza. Ci spingeremo oltre le paure quotidiane e rimarremo in piedi sempre sulle stesse strade. In fondo così simili saremo incontenibili agli occhi della gente che sa solo giudicare. Da grande voglio fare lunghi viaggi e non pentirmi. Da grande voglio credere che il cielo non ha fine. Amarti pure quando pensi che tutto va storto. La testa fra le nuvole anche senza passaporto. E stare in equilibrio senza un filo logico. Senza avere alcun appiglio, gli scienziati sbagliano. Ba-da-ba-ba-ra-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ba-ra-